Non erano molte a Ferrara nel 39, quando a partire dall'estate di quell'anno così determinante per le sorti dell'Italia e del mondo si era cominciata a notare al davanzale di una finestra di Corso Roma l'insistente presenza di un uomo in pigiama seduto su una poltrona con la schiena appoggiata a due grandi cuscini bianchi, le persone che potessero raccontare di lui e della sua vita cose meno che generiche. Che fosse l'unico figlio del dottor Francesco Barilari, morto nel 36, lasciandogli in eredità una delle migliori farmacie cittadine, questo sì, questo era un dato di fatto, noto perfino ai ragazzi delle leve più recenti, sui quali, come a valutare le future possibilità di ciascuno, le mattine che dirette a scuola passavano correndo lungo il portico del caffè e nel frattempo tiravano dalle cicche ridotte al minimo le ultimissime boccate, si era posato tante volte lo sguardo ironico e penetrante dell'anziano, sempre meditabondo, ossuto farmacista, da loro stessi soprannominato Bilancino, al cui proposito del resto, tranne che fosse stato un autorevole 33 che avesse nutrito in principio qualche simpatia per il fascismo e che da tempo immemorabile fosse rimasto vedovo, c'era ben poco da aggiungere. Le informazioni sul giovane Barilari, seppure può definirsi giovane un individuo di 31 anni, non andavano molto più in là del già detto. Nel 36, per esempio, quando il vecchio massone era morto, a vederlo prontamente prendere posto dietro il banco della farmacia, la sorpresa era stata generale. Chiuso nel candido camice di precetto, serviva i clienti con sicurezza, si lasciava chiamare dottore. Dunque aveva frequentato e finito l'università, mormoravano sbalorditi. Ma dove? Quando? Chi erano stati i suoi compagni di studi? Nuova sorpresa e stupore nell'autunno del 37, in occasione dell'improvviso matrimonio di lui con l'Anna Repetto, bionda figlia 17enne di un maresciallo dei carabinieri, oriundo di Chiavari e da qualche anno di stanza a Ferrara con la famiglia. Si trattava di un tipo piuttosto sfrenato, perennemente a zonzo in bicicletta o a ballare nei circoli rionali e sempre seguita, oltre che da folti codazzi di coetanei, dagli sguardi di parecchi non coetanei fissi ad ammirarne di lontano le evoluzioni. Una ragazza troppo in vista e vistosa, insomma, perché a farsela soffiare sotto il naso da uno come Pino Barilari non si sentissero defraudati, traditi, un po' tutti. E così, subito dopo le nozze, gran ritorno di chiacchiere a proposito di Pino, ma più assai, a dire il vero, a proposito della sposa giovanissima. Per lei, da parte di molti, erano già stati azzardati a suo tempo i pronostici più straordinari. Avendola notata su una spiaggia della vicina riviera adriatica, un pezzo grosso di fuori se ne innamorava di colpo e la sposava. Un produttore cinematografico, anche lui stregato dalle sue grazie, se la portava dietro a Roma per farne una diva di primo piano. Ebbene, come avrebbero potuto perdonarle adesso di aver ceduto alla tentazione di mettersi subito a posto, in quel modo? L'accusavano di meschinità, di avidità piccolo borghese, di innato putanesimo. Perfino di ingratitudine verso la famiglia la tacciavano. Eh sì, liguri, taccagni, chissà che delusioni ne avevano ricavato anche loro, povera gente. E poi, quando mai si erano visti, i due, prima di arrivare al coniugio, dov'è che si erano trovati? Se la loro non fosse stata fin dall'inizio una di quelle tipiche porcheriole combinate magari per telefono che succedono talmente spesso, si sarebbe potuto sorprenderli ogni tanto in giro dalle parti di Piazza della Certosa o lungo i bastioni o in Piazza d'Armi, eccetera. Dunque anche stavolta quella gatta morta di Pino Barilari si era condotto con incredibile abilità. Nascosta dentro la farmacia, aveva lasciato che gli altri lì fuori si sfogassero a contemplare l'Anna che coi capelli biondi gettati dietro le spalle, con le grosse labbra tutte tinte e mostrando fino alle cosce e anche più in su le lunghe gambe abbronzate, passava e ripassava davanti ai tavolini del caffè della borsa. E al momento opportuno, zac, era stata svelta a tirare a sé la rete e tanti saluti. Ma d'altronde C'era proprio bisogno che lui andasse a spasso con una ragazza libera e spregiudicata come l'Anna Repetto, una ragazza che la città non perdeva mai d'occhio un solo istante, se al di sopra della farmacia, dopo l'uscita dalla comune di Barilari Padre, si era reso disponibile un intero appartamento, chi mai avrebbe potuto accorgersene di lei se, mettiamo, si fosse infilata in farmacia alle 2 del pomeriggio, quando sotto il tendone esterno del caffè della borsa non è rimasto più nessuno. Brutta storia, concludevano con una smorfia, decisamente brutta e volgare, della quale adesso che si era conclusa come si era conclusa, meglio non parlarne più, scordarsene. Soltanto l'improvvisa paralisi, che di lì a nemmeno 2 anni aveva colpito Pino Barilari alle gambe, col conseguente effetto di cominciare a sospenderne lassù in alto, come da un palco di proscenio, il mezzo busto in pigiama al di sopra dell'animato teatro di Corso Roma, aveva avuto il potere di richiamare ancora una volta l'attenzione generale su di lui. Da allora in poi la giovane moglie, sebbene un tratto compianta, venne trascurata e si tornò a discorrere di Pino e di lui solamente. Ma non era appunto questo, d'altra parte, ciò che lui stesso cercava, offrendosi come faceva agli occhi di tutti? Lui infatti era sempre là, ormai, seduto dalla mattina alla sera sul davanzale di una finestra dell'appartamento sovrastante la farmacia e pronto a fissare chiunque si azzardasse a passargli a tiro lungo il marciapiede della fossa del castello, con uno sguardo nel quale brillava una luce. Garantivano proprio loro, i passanti, insolente e impudica insieme e allegra per giunta, seguitavano, come se fosse stata appunto la sifilide che per tanti anni aveva sonnecchiato subdolamente nel suo sangue e infine era insorta di colpo a stroncargli le gambe, a trasformare la sua scialba vita in qualcosa di chiaro, di comprensibile a lui stesso, insomma, di esistente. Ormai si sentiva forte, lo si vedeva bene, addirittura rinato. In ogni caso del tutto diverso da quella specie di naufrago aggrappato al salvagente che subito dopo il matrimonio si era esibito 2 o 3 volte in compagnia della moglie, a braccetto insieme con lei, verso sera giù per la Giovecca. Vedete, carissimi, a cosa può condurre un piccolo trascorso di gioventù, aveva l'aria di voler dire. Ecco qua. Vedete? E negli occhi che gli splendevano ormai non c'era più la minima ombra di nessun tipo.